diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Oggi è un giorno importantissimo perché iniziamo con questo piccolo gruppo, la Summer School, che è stata avviata in queste settimane e loro sono un po' gli ultimi a partire alla scoperta di Milano. Milano come un libro aperto da leggere, da imparare, per restituire ai bambini la gioia di incontrarsi, di scoprire gli altri, ma anche la città dove vivono e che, devo dire, essendo qui nel quartiere cinese, cresciuta un po' l'ostilità in questi mesi, si è sentita l'ostilità verso la Cina, verso i cinesi, insomma per tutta la situazione del Covid. Loro, che sono bambini nati a Milano, milanesissimi, si sono improvvisamente come sentiti un po' stranieri, un po' esclusi in qualche modo più di prima, e quindi hanno molta voglia di invece di ritornare ad affermare che sono milanesi e quindi conoscere meglio la città dove da sempre vivono. Hanno anche scritto una lettera al sindaco e questa è una cosa molto bella, quindi penso che poi loro potranno raccontare, però diciamo che oggi inizia questo percorso per imparare, che è un percorso di scuola in cui noi cerchiamo di fare scuola all'aperto, in piccoli gruppi, rispettando tutte le norme, le precauzioni che sono necessarie in questo periodo, riportandoli ad uscire e a stare insieme. Elisa Giunipero è la referente della Scuola della Pace di Sant'Egidio, un progetto di integrazione sparso in tutto il mondo. La Scuola della Pace a livello internazionale, nel senso che è nata dall'esperienza della comunità di Sant'Egidio a Roma e poi si è diffusa in tante città italiane, europee, in Africa, in Asia, in America, quindi dovunque c'è la comunità di Sant'Egidio c'è anche l'esperienza e l'incontro, l'amicizia con i bambini, spesso dei quartieri più difficili o che più hanno bisogno di un sostegno per l'integrazione. E come funziona un pomeriggio? Cioè, in una normale giornata scolastica, come si inserisce questa Scuola della Pace? Sì, è un appuntamento bisettimanale, normalmente, in cui i bambini dopo la scuola, sono tutti bambini che frequentano le scuole elementari o medie, quindi anche ragazzini un po' più grandi, che poi trovano in questo centro pomeridiano un'attività che non è però soltanto di studio, di apprendimento, che certamente è una parte importante per noi, ma soprattutto anche di conoscenza del mondo e di appunto educazione alla pace, come dicevo prima. Quindi le attività possono essere varie anche in base all'età, naturalmente la lettura, la lingua, la lettura anche dell'attualità, di quello che succede nel mondo, accompagna dei bambini in queste attività che magari non hanno molte altre occasioni per sapere che cosa succede nella loro città o intorno a loro, e quindi hanno tante domande, e i grandi, cosiddetti gli amici grandi della Scuola della Pace, aiutano loro, li accompagnano un po' nella crescita e nella loro scoperta e scoperta del mondo. Sicuramente abbiamo una prevalenza di bambini di origine straniera, perché evidentemente hanno più bisogno, anche la scuola ce li segnala di più, ma cerchiamo sempre di coinvolgere anche bambini italiani, e questo per noi è un aspetto fondamentale, perché naturalmente deve essere una costruzione di un incontro. C'è abbastanza disponibilità comunque sia da parte delle scuole, degli insegnanti, dei genitori italiani, troviamo spesso un buon riscontro. In questa estate post-quarantena, le cui ricadute toccano ancora molte famiglie che vivono situazioni di grave difficoltà economica, la Summer School è di fatto un modo per non scomparire e continuare a stare al fianco di chi ha bisogno. L'idea è dunque quella di creare opportunità educative sfruttando la città, andando in giro per musei, quartieri particolari, accompagnati da educatori volontari. Lisa Pozzan è un'insegnante di italiano e latino al liceo e nel tempo libero insegna alla Scuola della Pace. Mi racconta che nel quartiere cinese i bambini hanno sofferto per certe forme di razzismo, tanto da decidere di scrivere al sindaco. Con i bambini, insomma, abbiamo organizzato quest'estate queste uscite, e quindi questa è la seconda uscita ufficiale con loro per aiutarli, insomma, dopo il periodo della didattica a distanza, a stare un po' all'aria aperta e scoprire un po' Milano, quindi riappropriarsi anche di una bella identità sulla città. È una bella esperienza perché si crea un rapporto anche con, non solo con i bambini, quindi si conosce, diciamo, la zona anche del quartiere, che è un quartiere cinese, ma anche si crea un legame con le famiglie, che poi è il legame più forte, quindi il senso di amicizia che c'è va oltre anche l'attività che a volte viene classificata come semplice dopo scuola, però non è così, insomma, con i bambini, insomma, del quartiere è venuto fuori che c'è questo sentimento, molta paura che hanno le famiglie ancora oggi, molte difficoltà anche soprattutto economiche, quello sì, perché c'è un divario che si è acuito tra ricchi e poveri notevolmente, e soprattutto hanno sentito molto un po' un pregiudizio a volte nei loro confronti. Quindi nella lettera anche che hanno scritto al sindaco c'era la famosa frase che loro vengono additati come quelli che mangiano i pipistrelli, quindi a loro è dispiaciuto molto perché dicono che non li mangiano, quindi questo dà anche l'idea del rapporto, insomma, che ci può essere con le persone cinesi o dell'idea che si ha di loro. Sì. Quindi loro sono stati colpiti anche da questa immagine che stava venendo fuori della Cina, comunque del cinese medio, diciamo, queste cose che si sono molto diffuse, tra l'altro. Sì, loro l'hanno sentito secondo me particolarmente, poi ovviamente loro sono stati molto ligi alle regole, quindi si sono chiusi a casa, questo hanno rispettato, però un po' la fatica la sentono anche adesso, anche con la riapertura che ha negozi, eccetera, c'è una fatica in più, insomma. Rivendicare ciò che si è per davvero e non ciò che gli altri credono di noi è un grande atto di forza. A scrivere la lettera al sindaco Sala sono stati proprio i bambini con cui starò oggi: Federico, Veronica, Giuliano e Alessandro. Abbiamo detto quello che volevamo aggiungere, delle cose a Milano, tipo le strade pulite e altro. Abbiamo chiesto di aggiungere delle cose a Milano e abbiamo detto pure di aumentare l'igiene. No, anche, però di aumentare le mascherine per gli anziani e i senza tetto. Il sindaco vi ha risposto? Sì, ci ha mandato una lettera proprio a casa nostra. E cosa c'era scritto? Com'è stato? Emozionante? Grazie per averci detto quello che voi pensavate su Milano. Stiamo già mettendo le organizzazioni sugli uffici di Milano 2020. Ti è piaciuto trovare la lettera del sindaco che ti rispondeva, Veronica? Sì. Perché? Ti sei sentita ascoltata? Sì. Senti, e oggi, Federico, dov'è che andate? A Duomo. Cosa vi aspettate di vedere in questa gita? Il Duomo? Gli dico il castello. Sarà bello vedere la città dall'alto. Questo è vero. Sì, sì. Tu l'hai mai fatto? No. Perché a casa non c'ho nulla da fare, tranne i compiti e altro. E giocare al computer. Dunque oggi saliamo sul Duomo e tra le guglie guardiamo la città dall'alto. Ci muoviamo per Milano usando una mappa di carta e ogni momento è buono per imparare e ridere. Allora, questo che parco è? Sarà il parco? Prova a vedere se c'è un indizio vicino. Non lo c'entra tutto. Questa? La riconosci? Sì, l'arena. Ma non c'entra, Veronica. C'è una cosa strana, perché non c'è il castello? Dov'è il castello? No, ci deve essere. Scusa, non è possibile. Corso Sempione Parco. Esatto. Ma no, il castello c'è. Cioè, guardalo. Questo? Eccolo lì, lo vedi? C'è mica sì, scritto? Duomo, castello, forse dov'è il Duomo? Dov'è il Duomo? È tra queste parti. Allora. No, ma non è qua. Ma senti, Alessandro, sei sicuro? Perché Milano è fatta come una forma circolare, quindi sarà il centro. No, beccato. Questo è il castello. Centro. Aspetta che richiudiamo. Questa sì che è un po' strana. Ho fatto pure il video. È strana perché com'è Ale? È degli anni 80. Madonna, che vecchia! Che vecchia! Cos'è che dovete fare col quadernetto? Teniamo gli appunti. Nella gita? Sì. Oppure di qualcos'altro che abbiamo visto. Che vi ha colpito? Sì. L'altra volta avete scritto delle cose nell'altra. O questa è la prima gita? No, cioè l'altra volta no, abbiamo ricordato delle persone, dei bambini di Corbetto qua. Per Favoriere Paolo Sarpi. Ah, avete fatto l'accoglienza, diciamo? Sì. E com'è andata? Bene, si sono divertiti. È piaciuto ai bambini di Corvetto il quartiere? Sì, soprattutto mangiare ravioli. Ma voi prendete spesso il tram? No. Io no, perché abito vicino al negozio, vicino all'oratorio, vicino al negozio di Fede, vicino alla scuola. Loro erano italiani i bambini di Corvetto? No, sono diciamo seconda generazione, quindi alcuni bambini o rom, comunque oppure magari della zona del Maghreb, quindi come provenienza, sì. Quindi è stato un bello slancio, anche poi si sono trovati bene tra di loro per poi fare l'uscita al contrario, quindi per andarle a trovare. In Italia molti minori, soprattutto nelle periferie, hanno avuto un accesso molto scarso alla scuola a distanza e hanno accumulato ritardi importanti. Progetti come questo, apparentemente piccoli, servono a colmare divari e creare opportunità. Ci fermiamo un istante e torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. La prima uscita ufficiale. La mamma era spaventata, sì. Allora abbiamo fatto mettere i guantini, tutto in sicurezza, però la prima uscita molto più lontana rispetto alla casa, assolutamente. Ale, sei emozionato allora? Un po'. Per vedere come... Vediamo, la vediamo dall'alto Milano, mi devi dire se è cambiata in questi mesi, va bene? Eh sì, perché magari è cambiato qualcosa, si sa mai. Quindi adesso lo vediamo. Ci sarà qualcosa in più. Eh sì. Adesso prendiamo il tram però per andare. Una giornata in giro per la città tra cartine, tram e visite sulla cima del Duomo di Milano, assieme ai ragazzi della Scuola della Pace di Sant'Egidio, una summer school itinerante. A gestire il progetto Elisa. Sono Elisa Giunipero e faccio parte da tanti anni della comunità di Sant'Egidio. Mi occupo delle scuole della pace, che sono i centri pomeridiani per bambini della comunità di Sant'Egidio. Perché avete scelto di chiamarle Scuole della Pace? Ma Scuole della Pace perché innanzitutto i bambini imparano a convivere, a stare insieme tra bambini italiani e bambini di provenienze le più diverse, appartenenze religiose, lingue, culture. E poi perché i bambini imparano a costruire la pace insieme a noi e si impegnano in azioni di solidarietà verso altri. Ad esempio ogni anno organizziamo attività di solidarietà verso l'Africa, verso Malawi, verso alcuni paesi africani di cui i bambini imparano a conoscere le situazioni e le storie. E quindi anche bambini che magari vivono situazioni di difficoltà o di povertà, però trovano una grande dignità nell'aiutare gli altri e nel costruire la pace. Ad esempio anche il ponte con gli anziani, questa amicizia tra le generazioni è un modo di costruire reti nella città, è un modo di costruire la pace. Quindi in questo senso Scuola della Pace, perché ci sono tante iniziative per costruirla intorno a noi. Sì, under vuol dire sotto, anche se under 12, under 13, tutto. Under 14 soltanto quelli sopra. Perché questo è esatto. Allora, voi andate in prima media l'anno prossimo? Sì, io in seconda. Tu in seconda e Ale in quinta, vero? Sì. Tutti promossi, ragazzi. Tutti promossi, sì. Avete già... La terza media, forse, no. Vabbè. Avete già visto le pagelle online? Sì. La Scuola della Pace è un esperimento di integrazione capillare che si sviluppa in tutti i quartieri di tutte le città d'Italia e non solo, un progetto che coinvolge i bambini e i ragazzi che si mettono a disposizione come volontari. Mi chiamo Emanuele Iaconis e mi occupo dei bambini della scuola di Via Giusti, che sono bambini di famiglia cinese. Li aiutiamo in questo periodo di quarantena, abbiamo fatto delle videochiamate e abbiamo cercato di trascorrere con loro del tempo, magari alcuni l'hanno anche aiutati a fare i compiti. E durante questi giorni che si è un po', diciamo, smossa la situazione, si può uscire, li stiamo portando in giro per Milano per conoscere meglio la loro città e farli sentire più milanesi, appunto. E facendo queste gite cosa hai scoperto? Che molte cose le conoscevano o non le conoscevano? Alcune cose non le conoscevano. Però l'ultima volta siamo andati comunque in giro nel quartiere, quindi i bambini vivono qui vicino, quindi qualcosa la sapevano già. Oggi per esempio andremo in Duomo e osserveranno la città dall'altro e non penso che siano mai stati sopra, quindi scopriranno sicuramente qualcosa di nuovo. Cosa ti dà fare questa cosa, andare in giro con i bambini? Innanzitutto mi fa sentire comunque contento perché riesco ad aiutare altre persone, secondo me è la cosa migliore di questo mondo, poter aiutare gli altri, e ti fa sentire anche in un certo senso più responsabile. Quanti anni hai? Io ho 18, compiti da poco. Che classe fai? Ho appena finito la quarta del liceo scientifico. E hai scelto questa scuola della pace, questo progetto, la scuola della pace di Sant'Egidio, o ti hanno proposto? Cioè, com'è andata la scelta? No, c'era una mia amica che aveva pubblicato su Instagram delle storie di queste attività, diciamo, di volontariato, e io ho deciso di informarmi di più per poter appunto iniziare, dato che avevo già in progetto da un anno di iniziare a fare qualcosa per aiutare gli altri. E com'è stato all'inizio? Cioè, ti ha fatto un po' paura l'idea di doverti prendere la responsabilità appunto perché tu poi sarai il responsabile per questi bambini? Sì, all'inizio è normale, non sapevo bene come muovermi, cosa fare, ma poi già adesso è qualche settimana che mi sto occupando dei bambini, sto cercando sempre di più di interagire con loro per conoscerli meglio. C'è qualche cosa che ti ha colpito più delle altre? In particolare una cosa che mi ha colpito dei bambini è la loro, sotto alcuni punti di vista, la loro maturità, loro vivono in un mondo diverso dove non esiste il razzismo, quanto ho potuto vedere nei bambini, sono molto più anche trasparenti magari di noi grandi, e questo mi ha colpito molto. Riescono anche a cogliere le difficoltà magari di una persona, riescono a capire meglio il comportamento di una persona, sono più sensibili anche, e quindi questo mi ha colpito molto dei bambini. Alla fine arriviamo davanti al Duomo. Io penso di sì, sai. Ale, più che altro noi facciamo una cosa un po' diversa, cioè proprio facciamo la salita per vedere dall'alto tutto il Duomo. E voi andiamo alla fabbrica? Sì. Ma stanno ricominciando. No, è sopra, è una cosa stranissima, Veronica, perché sembra che sei sulle guglie, ma in realtà sei dentro. È una cosa molto bella, l'hanno riaperta. Le guglie sono tutte quelle... quei picchi che vedi, quelle alture che ci sono sopra. Allora, quando è stato costruito il Duomo di Milano? 1983. Albo e bo. 1900, 1800, 1600, 1700. 1600, 1600. Prima. 1500. Prima, vecchissimo. Alle 00. 1000 no, erano ancora troppo indietro. 1400. Un po' prima. Alle 00. 1000? 300. All'anno 100. Zero. L'anno zero, eh? Cioè, non sapevano neanche fare... Ok, perché si chiama Duomo? Avanti, perché è Gesù. Perché è stato... Non lo so. Non lo sai, adesso lo scopriamo. Vuoi scoprirlo? Sì. Esatto. È vero che c'è... Questa si chiama Piazza Duomo perché c'è il Duomo. C'è un giorno della settimana che è collegato alla parola Duomo. Qual è secondo te? Domenica. Bravissimo, domenica, che assomiglia la parola a Duomo. Giuliano e Federico hanno finito la quinta elementare, l'anno prossimo andranno alle medie. Veronica ha 12 anni e a settembre andrà in seconda. Alessandro andrà in quinta elementare. Sono bambini della scuola della pace, con ogni probabilità futuri ragazzi di pace, che magari da grandi dedicheranno un po' del loro tempo per dare forza ad altri bambini. La bellezza di questo progetto sta proprio qui e nella semplicità dei gesti, quello stare assieme e fare cose, sentirsi parte di un gruppo, un'identità che in questo caso passa anche dal sentirsi milanesi. Così, arrivati in cima, sul Duomo, dall'alto della città, qualcuno cerca subito lo stadio di San Siro. Altri però si ricordano di girare un video per una signora anziana che non può più muoversi, ma che aveva voglia di vedere com'è la vista da quassù. E da quassù, tra le risate di questi bambini e la Madonnina, tutto sembra possibile. La cosa più brutta è che non si può portare il cibo. Anzi, c'è un'altra cosa. Il microscopio... No, come si chiamava quello? Il cannocchiale, non si usava un euro, e quello mi fa un po' arrabbiare. E a te cosa è piaciuto di più? La statua dorata? La Madonnina? Sì. A me la cosa più bella è stata la torre in cima perché non ci sono mai andato, e la cosa più brutta era che non abbiamo portato una fotocamera. A me mi è piaciuto. La cosa che mi è piaciuta di più è essere per la prima volta salire sul Duomo. E la cosa più brutta è che c'erano tante scale. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Un saluto da Cristina Carpinelli, scriveteci a diario@radio24.it. Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.